Il signor di Charlieu aveva un rispetto e un affetto inalterati per alcune grandi dame accusate di disfattismo, come un tempo per quelle che erano state accusate di dreyfusismo. Si rammaricava soltanto che, abbassandosi a fare della politica, avessero dato esca alle polemiche dei giornalisti. Per lui, nei loro confronti, non era cambiato nulla. La sua frivolezza era infatti così sistematica che la nascita unita alla bellezza e ad altri prestigi era la cosa durevole, e la guerra o l'affare Dreyfus delle mode volgari e fuggevoli. Se anche avessero fucilato la duchessa di Guermantes per tentativo di pace separata con l'Austria, lui l'avrebbe sempre considerata altrettanto nobile e non più degradata di quanto ci appaia oggi Maria Antonietta, per essere stata condannata alla decapitazione. In quel momento, parlando, il signor di Charlieu, nobile come una sorta di Saint-Vallier o di Saint-Mégrin, era dritto, rigido, solenne, parlava con gravità, non indulgeva per un istante ad alcuno dei vezi in cui si rivelano quelli della sua specie. E tuttavia, perché la voce di nessuno di loro può essere davvero giusta? Persino in quel momento in cui più si avvicinava al grave, la sua era ancora falsa e avrebbe avuto bisogno dell'accordatore. D'altra parte, il signor di Charlieu non sapeva alla lettera dove sbattere la testa e l'alzava spesso con il rammarico di non avere un binocolo, che del resto non gli sarebbe stato di grande utilità, perché a causa dell'incursione di Zeppelin di 2 giorni prima, la vigilanza delle autorità si era risvegliata e c'erano più militari del solito anche in cielo. Gli aeroplani, di cui qualche ora prima avevo visto le macchie scure come di insetti sull'azzurro della sera, passavano adesso nella notte, resa ancora più profonda dalla parziale estinzione dei lampioni, come brulotti luminosi. La maggiore impressione di bellezza che quelle stelle umane e filanti ci facevano provare era soprattutto di farci guardare il cielo, verso il quale di solito alziamo poco gli occhi. In quella Parigi di cui, nel 1914, avevo visto la quasi indifesa bellezza aspettare la minaccia del nemico che si avvicinava, c'era, è vero, adesso come allora, l'antico immutato splendore di una luna crudelmente, misteriosamente serena, che spargeva sui monumenti ancora intatti l'inutile bellezza della sua luce. Ma come nel 1914, e più che nel 1914, c'era anche qualcos'altro. Delle luci diverse, dei fuochi intermittenti, che fossero di quegli aeroplani o dei riflettori della Torre Eiffel, sapevamo diretti da una volontà intelligente, da una vigilanza amica, che dava lo stesso genere d'emozione, ispirava la stessa sorta di riconoscenza e di calma che avevo provate nella camera di Saint-Lû, nella cellula di quel convento militare in cui si esercitavano, in attesa di consumare un giorno senza la minima esitazione nel pieno della giovinezza, il loro sacrificio, tanti cuori fervidi e disciplinati. Dopo l'incursione di 2 giorni prima, quando era stato più movimentato della terra, il cielo si era calmato come il mare dopo una tempesta. Ma come il mare dopo una tempesta, non aveva ancora riacquistato la sua pace assoluta. Alcuni aeroplani salivano ancora come razzi a raggiungere le stelle e alcuni riflettori spostavano lentamente nel cielo sezionato una sorta di pallida polvere d'astri, di erranti vie lattee. Gli aeroplani intanto andavano a inserirsi fra le costellazioni e, vedendo quelle stelle nuove, ci si sarebbe potuti credere in effetti in un altro emisfero. Il signor di Charlieu mi parlò della sua ammirazione per gli aviatori, e poiché non poteva impedirsi di dare libero corso alla sua germanofilia, come del resto alle altre sue inclinazioni, pur negando sia quelle che queste, aggiungo peraltro che ammiro in ugual modo i tedeschi con i loro Gotha e con gli Zeppelin. Pensate che coraggio ci vuole. Sono degli eroi, questo è il fatto. Cosa conta che bombardino i civili, dal momento che le nostre batterie sparano su di loro? Avete paura, voi, dei Gotha e del cannone? Risposi di no. E forse mi ingannavo, probabilmente, poiché la mia pigrizia mi aveva dato l'abitudine di rimandare all'indomani, giorno dopo giorno, il lavoro, mi figuravo di poter fare lo stesso con la morte. Come si può aver paura di un cannone se si è convinti che quel giorno non vi colpirà? D'altronde, formate una per una queste idee di bombe lanciate, di morte possibile, non aggiunsero per me niente di tragico all'immagine che mi facevo del passaggio delle aeronavi tedesche, finché da una di queste, sballottata, segmentata ai miei occhi dai fiotti di bruma d'un cielo bagnato, da un aeroplano che, pur sapendolo omicidiale, immaginavo esclusivamente stellare e celeste, non ebbi visto una sera il gesto della bomba lanciata verso di noi. La realtà originale di un pericolo non è percepita, infatti, che nella cosa nuova, irriducibile a ciò che già sappiamo, che si chiama impressione, e che spesso, come in quel caso, è riassunta da una linea che descriveva un'intenzione, una linea in cui c'era la potenza latente di un compimento che la deformava, mentre sul ponte della Concorde, attorno all'aeroplano minaccioso e braccato, e come se si fossero riflesse nelle nubi le fontane dei Champs-Élysées, di Place de la Concorde e delle Tuileries, gli zampilli luminosi dei riflettori si inflettevano nel cielo, linee piene anch'esse di intenzioni, intenzioni previdenti e protettrici di uomini potenti e saggi, ai quali, come quella notte nella caserma di Dancier, io ero grato che la loro forza si degnasse di prendersi con tanta e così bella precisione la briga di vegliare su di noi. Se la notte era bella, come nel 1914, Parigi era minacciata come allora. Il chiaro di luna, simile a un dolce, continuo lampo di magnesio, consentiva di fissare un'ultima immagine notturna di quei bei complessi, Place Vendôme, Place de la Concorde, alla cui bellezza ancora intatta il mio terrore delle granate, che li avrebbero forse distrutti, dava, per contrasto, una sorta di plenitudine, quasi come se si protendessero in avanti, offrendo ai colpi le loro architetture indifese. «Non avete paura», ripeté il signor di Charlus. «I parigini non si rendono conto. Mi dicono che Madame Verdurin dia ogni giorno un ricevimento. Lo so solo per sentito dire. Non so assolutamente niente di loro. Ho completamente rotto», aggiunse, abbassando non soltanto gli occhi, come se fosse passato un telegrafista, ma anche la testa, le spalle, e alzando il braccio nel gesto che significa: «Se non me ne lavo le mani, perlomeno non posso dirvi niente», benché non gli avessi chiesto niente. «So che Morel ci va sempre molto», mi disse. Era la prima volta che me ne riparlava. «C'è chi sostiene che rimpiange molto il passato, che vorrebbe riavvicinarsi a me», aggiunse, mostrando al tempo stesso la credulità dell'uomo del Faubourg, che dice: «Pare proprio che la Francia parli più che mai con la Germania, che siano addirittura cominciate le trattative», e quella dell'innamorato, che neanche i peggiori sgarbi hanno convinto. «In ogni caso, se vuole, non ha che da chiedermelo. Sono più vecchio di lui. Non sta a me fare il primo passo». Ed era certamente inutile dirlo, tanto era evidente. Ma oltretutto Charlus non era neanche sincero, ed è per questo che ci si sentiva così in imbarazzo per lui, perché si sentiva che, osservando come non toccasse a lui fare il primo passo, in realtà lo faceva, e si aspettava che io mi facessi carico del riavvicinamento. Conoscevo, è vero, l'ingenua o finta credulità di chi ama qualcuno, o semplicemente non è più ricevuto da qualcuno, e attribuisce a questo qualcuno un desiderio che egli non ha mai manifestato nonostante le più fastidiose sollecitazioni. Ma dall'accento, tutto a un tratto tremante con cui il barone scandì quelle parole, dallo sguardo torbido che vacillava in fondo ai suoi occhi, ebbe l'impressione che ci fosse qualcosa di più d'una banale insistenza. Non mi sbagliavo, e dirò subito i due fatti che me ne diedero retrospettivamente la prova. Anticipo di parecchi anni per il secondo di essi, posteriore alla morte del signor di Charlus. Questa, in effetti, sarebbe avvenuta molto più tardi, e avremo occasione di rivederlo parecchie volte, assai diverso da come lo abbiamo conosciuto, in particolare la seconda volta, in un periodo in cui aveva completamente dimenticato Morel. Quanto al primo di tali fatti, avvenne 2 o 3 anni soltanto dopo la mia passeggiata sui boulevard con il signor di Charlieu. Circa 2 anni dopo quella serata incontrai dunque Morel. Pensai subito a Charlieu, al piacere che gli avrebbe fatto rivederlo, e insistetti col violinista perché andasse a trovarlo, magari una sola volta. «È stato buono con voi», dissi a Morel. «Ormai è vecchio, può morire. Bisogna liquidare i vecchi dissapori e cancellare le tracce della rottura». Morel parve del tutto d'accordo con me circa una desiderabile riconciliazione, ma non per questo rifiutò meno categoricamente di fare anche una sola visita al signor di Charlieu. «Avete torto», gli dissi. «È per testardaggine? Per pigrizia? Per indifferenza? Per amor proprio mal riposto? Per virtù? Rassicuratevi, non sarà minacciata. Per civetteria?» Al che il violinista, storcendo il viso per una confessione che gli costava certo moltissimo, mi rispose rabbrividendo: «No, niente di tutto questo, della virtù me ne infischio, cattiveria, al contrario. Comincia a farmi pena? Non per civetteria, sarebbe inutile, non per pigrizia. Ci sono giornate intere in cui sto lì a girarmi i pollici. No, non è per niente di tutto questo. È, non ditelo mai a nessuno, sono un pazzo a dirvelo, per paura». Si mise a tremare in tutte le membra. Gli confessai di non capirlo. «No, non chiedetemi niente, non parliamone più. Voi non lo conoscete come lo conosco io. Posso dire che non lo conoscete affatto». «Ma che male può farvi? Del resto non cercherà nemmeno di farvene, se non ci sarà più nessun rancore fra di voi. E poi, in fondo, sapete che è molto buono». «E come se lo so?» «E che delicatezza, che rettitudine. Ma lasciate stare, non parlatemene più, vi supplico, mi vergogno a dirlo. Ho paura». Il secondo fatto è successivo alla morte di Charlieu. Mi consegnarono qualche ricordo che mi aveva lasciato e una lettera in triplice busta, scritta almeno 10 anni prima della sua morte, ma era stato gravemente malato, aveva fatto testamento, poi si era ristabilito, prima di cadere nello stato in cui lo vedremo a una matinée in casa della principessa di Guermont. E la lettera, rimasta in una cassaforte con gli oggetti che legava ad alcuni amici, era rimasta lì per 7 anni. 7 anni nel corso dei quali il barone aveva completamente dimenticato Morel. La lettera, vergata con una scrittura fine e ferma, era così concepita: «Caro amico, le vie della provvidenza sono ignote. A volte essa si vale del difetto d'un essere mediocre perché non cessi di risplendere la preclarità d'un giusto. Voi conoscete Morel, sapete da dove viene, a quali fastigi, altrimenti detto al mio livello, io abbia voluto innalzarlo. Sapete che egli ha preferito tornare non già alla polvere e alla cenere da cui ogni uomo, ossia l'autentica fenice, può rinascere, ma al fango dove striscia la vipera. Si è lasciato cadere, evitando a me di decadere. Sapete che le mie armi contengono la divisa stessa di nostro Signore: inculcabis super leonem et aspidem, con un uomo sotto i cui piedi sono raffigurati, quale supporto araldico, un leone e un serpente. Ora, se io ho potuto così calpestare il leone che sono, è stato grazie al serpente e alla sua prudenza, che con troppa leggerezza ho poc'anzi chiamata difetto, giacché la profonda saggezza del Vangelo ne fa una virtù almeno per gli altri. Il nostro serpente, dai sibili un tempo così armoniosamente modulati, quando aveva un incantatore, non poco incantato del resto, non era soltanto musicale e rettile, ma possedeva sino alla vigliaccheria quella virtù ch'io tengo ora per divina, la prudenza. A tale divina prudenza egli deve aver saputo resistere alle richieste che io gli ho fatto giungere, di tornare da me. E non avrò pace in questo mondo, né speranza di perdono nell'altro, se non ve ne rendo confessione. È stato lui, in quel frangente, lo strumento della saggezza divina, giacché, a tanto, ero risoluto, egli non sarebbe uscito vivo dalla mia casa. Era necessario che uno di noi due sparisse. Avevo deciso ad ucciderlo. Dio gli ha consigliato la prudenza per preservarmi da un crimine. Non ho dubbi che l'intercessione dell'arcangelo Michele, mio santo patrono, vi abbia avuto gran parte, e lo prego di perdonarmi se l'ho tanto trascurato per lunghi anni e se ho così mal riposto alle innumerabili bontà che mi ha testimoniate, in special modo nella mia lotta contro il male. Devo a questo servitore di Dio, lo dico nella pienezza della mia fede e del mio intelletto, se il Padre Celeste ha ispirato a Morel di non venire. Così, adesso sono io a morire. Il vostro fedelmente devoto, semper idem, P. G. Charlu. Capii allora la paura di Morel. Certo, c'erano molto orgoglio e molta letteratura in quella lettera, ma la confessione era vera. E Morel sapeva meglio di me che quel tanto di quasi folle che Madame de Germain ravvisava nel cognato non si limitava, come io avevo creduto sino a quel momento, a certi aspetti momentanei di rabbia superficiale e inoffensiva,